ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Mi rimasero i libri, le medicine e i consigli. E mi servirono subito. A parte i contagi, anche le malattie più disparate ed estranee vanno a gruppi. In certe settimane non ci sono malati, o soltanto di cose leggere, ma quando si trova un caso grave, si può essere certi che presto se ne presenteranno degli altri. Uno di questi periodi, infatti, il primo dopo il mio arrivo, capitò subito dopo la partenza di mia sorella. Una serie di casi difficili e pericolosi che mi facevano paura. Tutte le malattie qua giù, del resto, prendono sempre un aspetto eccessivo e mortale, ben diverso da quello che ero abituato a vedere nei lettini ben ordinati della Clinica Medica Universitaria di Torino. Sarà lo stato di anemia cronica dei vecchi malarici, sarà la denutrizione, sarà la scarsa reazione al male di questi uomini passivi e rassegnati. Certo, si vedono fin dal primo giorno di malattia accavallarsi tumultuosamente i sintomi più disparati, i visi dei sofferenti assumere l'aspetto angosciato dell'agonia. E io passavo di meraviglia in meraviglia, vedendo questi malati che qualunque buon medico avrebbe giudicato perduti, migliorare e guarire con le cure più elementari. Pareva che mi aiutasse una strana fortuna. Visitai in quei giorni anche l'arciprete. Aveva delle emorragie intestinali, ma nella sua misantropia non ne parlava e continuava a passeggiare per il paese senza curarsi. Fu Don Cosimino, l'angelo della posta, il solo confidente del vecchio, che passava delle ore nell'ufficio postale e gli recitava i suoi epigrammi, a pregarmi di andarlo a trovare come per una visita di cortesia e di vedere intanto se potevo far qualcosa per lui. Don Traiella abitava con la madre in uno stanzone, una specie di spelonca, in un vicoletto buio non lontano dalla chiesa. Quando entrai da lui, lo trovai che stava mangiando con la madre. Avevano, in due, un solo piatto e un solo bicchiere. Il piatto era pieno di fagioli malcotti, che erano tutto il desinare. Madre e figlio, in quell'angolo di tavola senza tovaglia, ci pescavano a turno con vecchie forchette di stagno. Nel fondo della spelonca, separati da una tenda verde sbrindellata, c'erano due lettini gemelli, quello di Don Giuseppe e quello della vecchia, non ancora rifatti. Contro il muro giaceva in terra, in disordine, un gran mucchio di libri. Sul mucchio stavano posate delle galline. Altre galline correvano e svolazzavano qua e là per la stanza, che da chissà quanto tempo non era stata spazzata. Un tanfo di pollaio prendeva la gola. L'arciprete, che mi aveva in simpatia e mi considerava, con Don Cosimino, fra le poche persone con cui si poteva parlare perché non erano suoi nemici, mi accolse con piacere, con un sorriso sul viso, arguto e sofferente. Mi presentò sua madre, la scusassi se non mi rispondeva, era vetulata in firma, e mi offerse subito un bicchiere di vino che dovetti accettare per non offenderlo, in quel suo unico bicchiere che doveva aver servito per anni, senza essere mai stato lavato, a lui e alla vecchia, a quanto potevo arguire dalla gromma unta nera che lo incrostava tutto attorno. Don Traiella non aveva servitori ed era ormai così abituato a quella solitaria sporcizia che non ci faceva più caso. Quando, dopo che avemmo parlato dei suoi mali, si accorse che io guardavo con curiosità il mucchio dei libri, mi disse: «Che vuole? In questo paese non mette conto di leggere. Avevo dei bei libri, li vede? Ci sono delle edizioni rare. Quando sono venuto qui, quelle canaglie che li hanno portati me li hanno per dispetto imbrattati di pece. Mi è passata la voglia di aprirli e li ho lasciati lì in terra. Ci stanno da molti anni». Mi avvicinai al mucchio. I libri erano coperti da uno strato di polvere di sterco di gallina. Qua e là, sulle coste di pelle, si vedeva davvero qualche macchia di pece, ricordo dell'antico attentato. Ne tolse qualcuno a caso. Erano vecchi volumi seicenteschi di teologia, di casistica, delle storie dei santi e i padri della Chiesa e poeti latini. Doveva essere stata, prima di essere così ridotta a cuccia per i polli, la buona biblioteca di un prete colto e curioso. In mezzo ai libri saltarono fuori degli opuscoli sgualciti e imbrattati, opera di Don Traiella, studi storici e apologetici su San Calogero di Avila. «È un santo spagnolo poco conosciuto», mi spiegò l'arciprete. «Ho fatto anche dei quadri temporibus illis che rappresentano i vari episodi della sua vita, delle specie di politici». Insistetti perché me li mostrasse e si decise a tirarli fuori di sotto il letto di dove mi disse non li aveva più riesumati dal giorno del suo arrivo. Erano delle tempere di gusto popolare ma tutt'altro che prive di efficacia, con moltissime figure minute e rifinitissime, dei quadri compositi con la nascita, la vita, i miracoli, la morte e la gloria del santo. Di sotto il letto uscirono anche delle statuette, opera anch'esse del prete, dei piccoli angeli e dei santi barocchi di legno e di terracotta dipinti, modellati con garbo facile nel gusto dei presepi napoletani del Seicento. Mi congratulai con l'inatteso collega. «Non ho più fatto nulla da che sono qua, in partibus infidelium, a prestare, come suol dirsi, i sacramenti di Santa Madre Chiesa a questi eretici che non ne vogliono sapere». «Prima mi divertivo a fare queste cosette, ma qui, in questo paese, non si può. Non mette conto di far nulla, qui. Prenda ancora un bicchiere di vino, Don Carlo». Mentre cercavo di evitare con un pretesto il terribile bicchiere, assai più amaro di tutti i possibili filtri, la vecchia madre, che era rimasta fino allora ferma e come assente sulla sua seggiola, si rizzò improvvisamente in piedi, gridando e agitando le braccia. Le galline, spaventate, cominciarono a svolazzare per la stanza, sui letti, sui libri, sulla tavola. Don Traiella si mise a rincorrerle qua e là per farle scendere dalle lenzuola, gridando «Paese maledetto!». E quelle strillavano sempre più stupidamente atterrite, alzando dei nuvole di polvere brillanti nel filo di sole che entrava per lo spiraglio della finestrella semichiusa. Profittai della confusione per uscirmene, tra quel gran volare di penne e ondeggiare nero di sottane. Molto diverso, per mia fortuna, dal povero Traiella, doveva essere stato il suo predecessore. Un prete grasso, ricco, allegro e gaudente, famoso in paese per la buona tavola e i numerosi figliuoli, e morto, a quel che si diceva, di una solenne indigestione. La casa dove finalmente, pochi giorni dopo, appena partite le parenti del confinato pisano, andai ad abitare, era stata costruita da lui, ed era, si può dire, l'unica casa civile del paese. Se l'era fatta vicino alla vecchia chiesa della Madonna degli Angeli, e ora che la chiesa era crollata nel burrone, la casa si era trovata ad essere l'ultima sul ciglio del precipizio. Era composta di tre stanze, una in fila all'altra. Dalla strada, un vicoletto laterale sulla destra della via principale, si entrava in cucina, dalla cucina nella seconda camera dove io misi il letto e di cui si passava ad una stanza grande con cinque finestrelle, che fu la mia stanza di soggiorno e il mio studio di pittura. Dalla porta dello studio si scendeva per quattro scalini di pietra in un piccolo orticello, chiuso in fondo da un cancelletto di ferro, con un albero di fico nel mezzo. La camera da letto dava su un balconcino, da cui una scaletta saliva sul fianco della casa alla terrazza che la copriva tutta. Di qui la vista spaziava sui più lontani orizzonti. La casa era modesta, costruita in modo economico e non bella, perché non aveva carattere. Non era né signorile né contadina. Non aveva né la nobiltà rovinata del palazzo né la miseria dei Tuguri, ma soltanto la mediocrità stantia del gusto pretesco. Lo studio e la terrazza avevano un pavimento a scacchi colorati come di certe sagrestie di campagna. Non ho mai amato queste geometrie, su cui l'occhio si posa continuamente e che mi sono fastidiose quando dipingo. Le piastrelle di poco prezzo stingevano quando erano bagnate e Barone, che amava rotolarsi per terra follemente, diventava allora di bianco che era un cane rosa. Ma i muri erano puliti, biancati a calce, le porte verniciate di azzurro, le persiane verdi. E soprattutto, a compenso di qualunque difetto, lo spirito epicureo del defunto prete aveva dotato la mia casa di un bene inestimabile. C'era un gabinetto, senza acqua naturalmente, ma un vero gabinetto, col sedile di porcellana. Era il solo esistente a Gagliano e probabilmente non se ne sarebbe trovato un altro a più di 100 chilometri tutto attorno. Nelle case dei signori ci sono ancora delle antiche seggette monumentali di legno intarsiato, dei piccoli troni pieni di autorità. E mi hanno detto, ma io non ne ho viste, che se ne trovano anche di quelle matrimoniali a due posti, per quei coniugi affettuosi che non possono tollerare la più breve separazione. Nelle case dei poveri, naturalmente, non c'è nulla. Questo fatto dà luogo a delle curiose costumanze. A Grassano, in certe ore quasi fisse, il mattino presto e verso sera, si aprivano furtivamente le finestrelle delle case e dallo spiraglio apparivano le mani rugose delle vecchie che lasciavano piovere, in mezzo alla strada, il contenuto dei vasi. Erano le ore della iettatura. A Gagliano questa cerimonia non era così generale né così regolata e non si sprecava così prodigalmente il concime per gli orti. La mancanza di quel semplice apparecchio, assoluta in tutta la regione, crea naturalmente delle consuetudini che non si sradicano facilmente, che richiamano mille altre cose della vita e si accompagnano a sentimenti considerati nobilissimi e poetici. Il falegname La Sala, un americano intelligente, che era stato molti anni prima sindaco di Grassano e che conservava gelosamente nel suo monumentale apparecchio radio portato di laggiù, con i dischi di Caruso e dell'arrivo di De Pinedo, quelli di discorsi commemorativi di Matteotti, mi raccontava che, dopo la settimana di lavoro a New York, usava incontrare un gruppo di compaesani ogni domenica per una scampagnata. Eravamo sempre 8-10. C'era un dottore, un farmacista, dei commercianti, un cameriere d'albergo e qualche artigiano. Tutti del nostro paese, ci si conosceva fin da bambini. La vita è triste tra quei grattacieli, con tutte quelle straordinarie comodità e gli ascensori, le porte girevoli, la metropolitana, e sempre case, palazzi e strade, e mai un po' di terra. Viene la malinconia. La domenica mattina si saliva in treno, ma bisognava fare dei chilometri per trovare la campagna. Quando eravamo arrivati in qualche posto solitario, diventavamo tutti allegri come ci si fosse tolto un peso di dosso. E allora, sotto un albero, tutti insieme, ci si calava i pantaloni. Che delizia! Si sentiva l'aria fresca, la natura. Non come in quei gabinetti americani lucidi e tutti uguali. Ci pareva di essere ragazzi, d'essere tornati a Grassano. Si era felici, si rideva, si sentiva l'aria della patria. E quando avevamo finito, gridavamo tutti insieme: «Viva l'Italia!» Ci veniva proprio dal cuore. La nuova casa aveva il vantaggio di essere in fondo al paese, fuori degli sguardi continui del podestà e dei suoi accoliti. Avrei potuto finalmente passeggiare senza urtarmi ad ogni passo nelle solite persone con i soliti discorsi. È usanza qui che i signori, quando incontrano qualcuno per via, non gli chiedano come sta, ma rivolgono a mo' di saluto questa domanda: «Beh, cosa hai mangiato oggi?» Se l'interlocutore è un contadino, risponderà in silenzio con il gesto della mano portata all'altezza del viso e oscillante lentamente su se stessa con il pollice e il mignolo teso e le altre dita piegate, che vuol dire poco o nulla. Se è un signore, si dilungherà a elencare le povere vivande del suo pranzo e si informerà di quelle del suo amico. Se nessuna passione d'odio ed intrigo locale accende in quel momento i loro animi, la conversazione continuerà per un pezzo, senza uscire da questo scambio di confidenze gastronomiche. Avrei potuto mettere il capo fuori dell'uscio senza battere subito il naso contro l'onnipresente pancia, enorme al punto di ostruire tutta la via, di Don Gennaro, guardia, messo comunale, a Calappiacani e spia del podestà. Sempre attento ad ogni passo dei confinati e a ogni parola dei contadini. Bravo uomo, forse, in fondo, ma devoto all'autorità e a Don Luigino e ostinato a far rispettare i suoi bizzarri decreti sulla circolazione dei maiali e dei cani e a minacciare ed affibbiare le multe per le ragioni più inverosimili alle donne che non avevano il denaro per pagarle. E soprattutto, era una casa, un luogo dove avrei potuto essere solo e lavorare. Mi affrettai dunque a salutare la vedova e a cominciare la mia nuova vita nella mia residenza definitiva. La casa apparteneva all'erede del prete, Don Rocco Macioppi, un modesto proprietario di mezza età, gentile, cerimonioso, chiesastico e occhialuto, e ad una sua nipote, Donna Maria Maddalena, una zitella sui 25 anni, d'un biondo slavato, allevata dalle monache di Potenza, anemica, sospirosa e linfatica. Fu inteso che essi avrebbero tenuto, per coltivare l'insalata, l'uso dell'orto, nel quale sarebbero entrati dal cancello, ma io vi potevo passeggiare a mio piacere. Il padrone e lo zoppo suo amico mi fornirono le suppellettili necessarie. Io ci portai le cose che mi ero fatte arrivare in quei giorni, il mio cavalletto grande e la poltrona, suo necessario complemento, l'uno per dipingere e l'altra per guardare i quadri a mano che li faccio. Mi sono entrambi indispensabili e ci sono affezionato. Mi hanno sempre seguito in tutti i miei viaggi qua e là per il mondo. E una cassa di libri che mi era giunta allora allora e per la quale dovetti ricevere una visita speciale del podestà e del brigadiere. Don Luigino mi mandò a dire che doveva assistere alla sua apertura per controllare che non ci fossero libri proibiti e, con l'assistenza del suo braccio secolare, esaminò ad uno i miei volumi. Lo fece naturalmente da uomo di studi, che non si stupisce di nulla, con molti sorrisi d'intesa, felice della sua sapienza e della sua autorità. Libri proibiti non ce n'erano, ma c'era per esempio una comune edizione degli Essai di Montaigne. «Questo è francese, non è vero?» esclamò il podestà strizzando l'occhio come a dire che non cercasse di ingannarlo. «Ma è un francese antico, Don Luigi. Già, Montaigne, uno di quelli della Rivoluzione francese. Faticai a convincerlo che non si poteva considerarlo un autore pericoloso. Il maestro sapeva il fatto suo e sorrideva compiaciuto, perché intendessi che se mi lasciava il libro, che avrebbe dovuto sequestrarmi, era per un atto di particolare benevolenza e di solidarietà tra uomini di cultura. La casa era in ordine, la roba era a posto, e ora dovevo risolvere il problema di trovare una donna che mi facesse le pulizie, che andasse a prendermi l'acqua alla fontana e mi preparasse da mangiare. Il padrone, la mazzacapre, Donna Caterina e le sue nipoti furono concordi. «Ce n'è una sola che fa per lei, non può prendere che quella!» E Donna Caterina mi disse: Il problema era più difficile di quanto non credessi. E non perché mancassero donne a Gagliano, che anzi, a decine si sarebbero contese quel lavoro e quel guadagno. Ma io vivevo solo. Non avevo con me né moglie, né madre, né sorella, e nessuna donna poteva perciò entrare da sola in casa mia. Lo impediva il costume, antichissimo e assoluto, che è a fondamento del rapporto fra i sessi, l'amore o l'attrattiva sessuale. È considerata dai contadini come una forza della natura potentissima, e tale che nessuna volontà è in grado di opporvisi. Se un uomo e una donna si trovano insieme al riparo e senza testimoni, nulla può impedire che essi si abbraccino. Né propositi contrari, né castità, né alcun'altra difficoltà può vietarlo. E se per caso effettivamente essi non lo fanno, è tuttavia come se lo avessero fatto. Trovarsi assieme è fare all'amore. L'onnipotenza di questo Dio è tale. E così semplice è l'impulso naturale che non può esistere una vera morale sessuale e neanche una vera riprovazione sociale per gli amori illeciti. Moltissime sono le ragazze madri ed esse non sono affatto messe al bando o additate al disprezzo pubblico. Tutt'al più troveranno qualche maggior difficoltà a sposarsi in paese e dovranno accasarsi nei paesi circostanti o accontentarsi di un marito un po' zoppo o con qualche altro difetto corporale. Se però non può esistere un freno morale contro la libera violenza del desiderio, interviene il costume a rendere difficile l'occasione. Nessuna donna può frequentare un uomo se non in presenza d'altri, soprattutto se l'uomo non ha moglie. E il divieto è rigidissimo. Infrangerlo, anche nel modo più innocente, equivale ad aver peccato. La regola riguarda tutte le donne, perché l'amore non conosce età. Elio De Capitani ha letto Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, tecnico del suono Raffaele Stefani, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.